ultimi due mesi e mezzo del mercato, c'è stato quella che viene chiamata una cosiddetta rotazione, c'è stato un po' un recupero, che alcuni, i più pessimisti, dicono anche, li chiamano i rimbalzi dei gatti morti, perché se andiamo a vedere i settori che sono saliti di più negli ultimi mesi, sono stati i settori che in realtà erano stati più massacrati all'inizio dell'anno e durante, diciamo, il picco della crisi dell'Eurozona, quindi il settore bancario e il settore delle utility, che erano stati veramente molto presi dalle pressioni di vendita. Diciamo che cercare di fare un quadro non è facile, perché anche questo rimbalzo che c'è stato del mercato è stato sicuramente significativo, siamo circa al 20-25% dai minimi registrati intorno a fine giugno, inizio luglio, però in realtà se guardiamo anche intorno a noi quello che è successo anche in altre borse, in realtà anche la borsa greca è salita del 20-25% dei minimi, e anche lì i titoli che poi più ne hanno beneficiato sono stati quelli più massacrati. Quindi diciamo, io da addetto ai lavori, da investitore, anche consulente, opportunista, certo ne ho preso atto sul fatto che c'è stato un rimbalzo dei mercati e ci sono diverse storie che sono tornate buone, però se allarghiamo un po' il quadro, come hai detto bene te all'inizio della tua premessa, le performance del mercato italiano rispetto ad altre borse, ci sono dei dati che ancora ci dicono che l'Italia è molto indietro, e quindi la domanda poi, che anche credo che anche gli altri gestori ci domandiamo tutti, è se questo gap che l'Italia ha perso in maniera molto forte negli ultimi anni, cioè hai detto bene che se andiamo a vedere dall'inizio anno la nostra borsa è sotto magari del 5%, mentre magari quella tedesca è su del 25-30%, stessa cosa la borsa inglese, e queste variazioni se noi le andiamo a portare, quindi differenze di performance, le andiamo a portare su periodi più lunghi, sono veramente drammatiche, cioè il listino italiano ha comunque perso, negli ultimi 2-3 anni si è distaccato in maniera molto forte. Per dare un'idea, se la borsa italiana dovesse ritornare ai massimi, che purtroppo sono spesso i prezzi di carico di molti investitori, dovrebbe risalire ai prezzi attuali, siamo ancora sotto del 63% dei massimi. Per dare un'idea, la Germania è solo sotto del 27% dei massimi e gli Stati Uniti sono sotto del 7% dei massimi, quindi abbiamo un grande gap che abbiamo accumulato in questi anni e che è un po' la sfida, però diciamo c'è un lato positivo, poi lascio la parola agli altri, e che comunque a volte si generalizza quando si parla dell'Italia, nel senso che ci sono comunque, se ne vedete da inizio anno, titoli e settori che si stanno comportando meglio, vi è un'Italia che va, e che non è magari l'Italia che leggiamo sulle pagine dei giornali di Fiorito, degli scandali della regione Lombarda e della crisi economica, delle vendite crollo dopo crollo dalle automobili e autocarri, ma sono società quotate a piazza affari che hanno una vocazione sempre più export oriented. Se andiamo a vedere i migliori titoli dell'anno, troviamo titoli come Salvatore Ferragamo, sì, Lottomatica, Prismian. Salvatore Ferragamo dall'inizio dell'anno è a più 66%, sì, con Lottomatica più 52%. Sì. Bravissima. Quindi società che sono società italiane, ma che il loro fatturato, investono, innovano e sono presenti sugli altri mercati. E questo è un lato positivo, perché comunque al di là di quello che succede alla barca Italia, ci sono molti imprenditori in Italia che hanno deciso di non puntare solo sul mercato domestico, perché credo che anche in prospettiva i problemi che ci siano possibili sono ancora certamente fortemente radicati sul mercato italiano interno.